9 in punto, la versione di Oscar. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end. Piazzato in capo stu sombrero, dice che si spagnola e non è vero, che nacchere in da sacca va a ballare, mescolando bolero c'ha c'acchi un brugliato reo. Questi basetta sudamericani, uno sigari avane a gamba se le picche, torero, torero, olè. Allora, buon inizio settimana. Come avrete capito, c'era uno sberleffo mio finale, perché mi auguro che il raffreddamento della temperatura mentale degli italiani sull'europeo di calcio, inevitabile frutto del fatto che vincono i migliori, quelli più forti, e mi pare che, con tutto il rispetto per il tifo nazionale che confonde le partite di calcio con la forza vera dei paesi, ieri abbiate toccato con mano che forse la vostra nazionale è un po' più debolina di quella degli altri. E allora mi sono permesso di fare questo putpurri con il grande Carosone, che invita a non fare i finti spagnoli, perché i toreri veri sono quelli che nella Plaza de Toros ve matano, cari tifosi che confondete l'azzurro dei rotolanti dietro un pallone che rotola con le performance dei paesi. Certo, tutti hanno arzigogolato sul singolare paradosso di questa finale dell'europeo che aveva i due paesi, uno che ha appena ottenuto un bel pacco di miliardi per le sue banche dopo aver detto a lungo che non aveva bisogno, e il paese, cioè il nostro, che, tanto per essere chiari, dopo l'Eurovertice, dopo il fatto che Monti si è ben comportato, poi abbiamo capito che nei dettagli però la licenza bancaria di cui vi avevo parlato anch'io dall'SM non è stata ottenuta, e siccome non è stata ottenuta significa che per avere l'intervento asimmetrico a nostro favore, solo a nostro favore, perché di questo si è trattato, bisognerà fare una domanda, non sarà automatico perché la dotazione dell'SM non è stata aumentata. Che cosa significa questo? Significa che nelle prossime settimane, vediamo se giorni o settimane, inevitabilmente il mercato verrà a testare questo meccanismo anti-spread per l'Italia. Significa che inizierà a vedere, con andando quanto corto e quindi con quanto selling, con quanta vendita sui mercati, con quanto innalzamento dello spread italiano, si mette in moto quale meccanismo di acquisto dei titoli italiani sui mercati da parte di questo meccanismo europeo. Ci sarà un test, quindi l'Italia, questo è il mio ragionevole previsione, ballerà nei prossimi mesi. L'essenziale è sapere che questo avverrà. Speriamo di non risentire per l'ennesima volta che è colpa degli altri. Speriamo che davvero quello di cui vedo qualche timida traccia sui quotidiani, perché pare che adesso il governo Monti stia scoprendo che bisogna mettere mano a dismissioni patrimoniali vere per abbattere il debito, pare che si sia convinto che bisogna abbattere dei diversi punti di PIL della spesa corrente. Chissà chi è che ve lo diceva da tanti mesi e oramai anni da questi microfoni. Ci hanno detto all'inizio di questo governo che invece no, bisognava solo alzare le tasse, che eravamo già un passo all'avanzo primario, bastava alzarle sia dirette che indirette che patrimoniali, e quello era il solito modo, il solito dei vent'anni. Anche questo governo che ci ha salvato a novembre scorso, però ha la responsabilità pesantissima di aver scelto la stessa strada, prima di capire con la boria d'impresa che è in corso e che non cessa. Non è che se abbiamo ospitato Passera due pomeriggi fa è finita, disperati mai, la nostra iniziativa per ascoltare e dar voce alla disperazione vera che viene dal tessuto di piccola impresa italiana, artigiani e commercianti, piegata nelle sue ragioni di sopravvivenza dalle enormi pretese accresciute del fisco italiano, dal credit crunch, dal fatto che tutti sono diventati cattivi pagatori, a cominciare dallo Stato, che naturalmente ci ha reso così sudditi. Trattino, leggete sempre i due libri, sudditi, lo trovate su Amazon.it, su tutte le altre piattaforme per ebook, insieme a Se va bene andrà peggio, scenari sull'Eurozona. Ma lo Stato, dico, ci ha resi così sudditi da obbligarci a credere che sia un passo avanti decisivo che abbia finalmente ammesso di avere 7 punti di debito e di crediti fiscali non onorati con le imprese, e da dire ma sì, tra un anno, se va bene, ve ne pago un decimo. E tutti quanti noi battiamo le mani, perché del resto, essendo abituati a fare i sudditi spogliati di diritti, quando il sovrano dall'alto ti concede un decimo dei tuoi diritti ordinari, tu batti le mani dicendo: ma come buono lei, come diceva un tempo Fantozzi. Allora, questo per dire che la fine dell'europeo di calcio ci deve restituire a un po' di serietà complessiva. Io ho criticato anche titoli che attaccavano duramente la Merkel, avete sentito, oggi mi fanno altrettanto ridere i titoli di chi dice Monti porta sfiga, ma questi sono i toni con i quali io non vorrei che la politica e l'economia italiana avesse più a che fare. Allora, andiamo al tema di oggi. Il tema di oggi è un tema di attualità, perché stringente, perché ieri avete sentito i giornali radio e telegiornali, e sui giornali di oggi la notizia politica dominante, trovate in prima pagina su tutti i quotidiani, è la svolta che è avvenuta dopo molti anni nella Lega, dopo le vicende che avevano colpito duramente la credibilità del fondatore, del leader storico della Lega, Umberto Bossi, e del suo circolo più stretto. Si è compiuta una svolta, nel senso che in nome della pulizia e in nome della discontinuità, il leader della Lega che più è andato dritto con queste due parole d'ordine, ieri in un congresso ad Assago è diventato segretario e leader del movimento politico che ha contrassegnato l'intera Seconda Repubblica. È nato da prima, ne ha costituito una delle due spallate insieme a Tangentopoli della Prima Repubblica, e il leader è diventato Roberto Maroni, che ha accettato di essere qui con noi, e io lo ringrazio. Buongiorno Maroni. Buongiorno, buongiorno. Allora, comincio con l'inevitabile domanda iniziale su Bossi, ed è l'unica che gli faccio su Bossi. I quotidiani si soffermano molto sul colore, ma in realtà in questa svolta, in questa difficile segreteria che lei prende dopo i risultati delle amministrative che hanno testimoniato, insomma, la serietà del problema, il ruolo di Bossi secondo lei quale rimarrà, quale sarà? Ma il ruolo di Bossi è quello previsto dallo statuto, cioè il presidente del partito. Io l'ho detto chiaramente ieri, proprio all'inizio del mio intervento: patti chiari, amicizia lunga. L'ho detto al congresso, che è l'organo supremo della Lega, con 630 delegati eletti eletti attraverso un sistema di primarie vero che noi abbiamo, non lo pubblicizziamo perché non ci interessa, ma un sistema che parte dalle sezioni e a salire arriva ai delegati al Congresso federale. L'ho detto subito, ho detto Patichiari amicizia lunga, se mi eleggete segretario sappiate che io voglio i pieni poteri in materia di A, linea politica, B, gestione del partito, se no sceglietevi un altro segretario. Quindi sono stato molto esplicito e alla fine su 630 delegati 628 hanno votato per me e 2 hanno votato contro, quindi siamo un partito democratico che ammette anche il voto contrario naturalmente. E io ho avuto ieri dal congresso la piena legittimazione, è stato un congresso vero, ripeto, non un'indicazione fatta dall'alto o dal basso o in qualche modo strano, un congresso vero che mi ha dato questo incarico molto pesante, come dice lei giustamente, è molto impegnativo, però questa è la mia posizione oggi, il mio compito è quello di riportare la Lega ai fasti di un tempo, non sarà facile, dobbiamo recuperare, ma io credo ci siano tutte le condizioni politiche di contesto perché la Lega torni ad essere assolutamente protagonista nella scena politica non solo italiana ma europea. Senta, io vorrei cominciare da uno dei punti che più mi ha colpito del suo intervento di ieri, perché mentre storicamente siamo abituati ad associare la Lega a uno slogan secessione, ieri lei a un certo punto ha collegato tra gli obiettivi della sua segreteria la collegata all'attualità, cioè a quello che stava avvenendo nella crisi europea, il debito pubblico italiano eccetera, che secondo me, ripeto, sarà sotto attacco. E a un certo punto ha accennato a una proposta che rispetto all'evoluzione precedente, alle proposte precedenti tradizionali della Lega, mi è sembrata interessante, perché ho visto una specie di cartina del Financial Times di 2 settimane fa, perché lei a un certo punto ha detto primo, Roma noi siamo disposti a non mandare più la gente per le poltrone, ma secondo, state attenti che qua l'euro, c'è una parte dell'Italia che è già la parte più avanzata dell'euro e per il resto o ci spartiamo gli attivi patrimoniali e il debito pubblico tra regioni italiane, oppure come hanno già capito anche fuori, non è affatto detto che l'Italia nell'euro ci resti tutta. Ma ho capito bene? Sì, ha capito molto bene. È un'analisi che noi avevamo fatto 7, 8, forse 10 anni fa contro l'euro, una moneta senza Stato, una moneta che venne introdotta in Italia per una precisa scelta politica per evitare, per tenere insieme due parti, nord e sud, che da tanti punti di vista, dal punto di vista economico in particolare, sono su pianeti opposti. Io ho definito ieri, non è un'espressione mia, ma l'ho usata, ho detto che anche noi abbiamo avuto e abbiamo la nostra Grecia, noi come Italia, no? Che è quella parte del paese, Mezzogiorno, che è stata di fatto sostanzialmente mantenuta negli ultimi decenni. E quando avevamo fatto questa analisi che l'euro non sarebbe servito a risolvere i problemi ma li avrebbe aggravati in Italia, eravamo stati derisi, no? Gente che non capisce niente. E adesso mi pare che invece questa analisi torni fuori. Se un autorevole giornale economico come Financial Times dice che l'unica parte d'Italia che può stare nella nuova eurozona, che poi è l'area mitteleuropea, no? L'area carolingia, diciamo così, è il nord Italia. E io ho detto ieri, noi non vogliamo uscire dall'euro, sarebbe un problema serio per i risparmi, le famiglie, però a condizione che si formi questa nuova eurozona, allora sì, ci conviene, conviene a tutti che il nord Italia stia dentro, altrimenti che cosa succederà? Succederà quello che ha ipotizzato un altro importante giornalista sulla prima pagina del Corriere della Sera, non leghista, ma una cosa che abbiamo detto noi, Angelo Panebianco, quando ho scritto testualmente, non sulla Padania, sul Corriere della Sera, dopo 150 anni di unità il fallimento dello Stato nazionale italiano è evidente, cioè nell'anno in cui si festeggia il 150esimo anniversario, in questi anni qua, il Corriere della Sera parla di fallimento dello Stato nazionale italiano e Panebianco dice qual è l'unico modo per tenerlo insieme? Il vincolo europeo, cioè stare nell'euro. Beh, a me non sta bene che l'euro sia una costrizione per stare uniti invece che una grande opportunità di sviluppo economico. Questa è la tesi che io ho sostenuto ieri. Senta, anche stamattina sulla prima pagina del Corriere della Sera è proprio pane bianco a tornare sull'analisi dei problemi e degli obiettivi della sua segreteria alla guida della Lega, e dice che nel compito che secondo pane bianco è quello che l'aspetta, cioè rilegittimare, riradicare territorialmente in una specie di CSU come in Baviera la Lega nel Nord sul problema settentrionale irrisolto, e poi dice testualmente: non è però sicuro che quest'opera di normalizzazione sia possibile se Maroni non si rassegnerà a perdere, magari allo scopo di conquistare nuovi e diversi elettori, le componenti più estremiste del movimento. Secondo lei, pane bianco, ma gli elettori che hanno anche poi segnalato alle amministrative un problema, quando pensano alle componenti estremiste, pensano a che cosa? Al colore degli elmi cornuti, di alcuni slogan, eccetera? Oppure è un'altra cosa quella che l'elettorato in realtà vi ha penalizzato, vedendovi che non c'era coerenza tra il dire e il fare, stare a Roma e prendere i soldi per cose di parenti e amici? Secondo lei qual è il ruolo fondamentale, il primo compito che lei deve svolgere per risalire nei voti? Ma primo, non ci sono componenti estremiste nella Lega. Di che cosa parliamo? Degli indipendentisti? Bene, il diritto di autodeterminazione dei popoli è previsto dalla Carta delle Nazioni Unite e, udite udite, dalla legge italiana. C'è una legge italiana che parla del principio di autodeterminazione dei popoli. Questo non è estremismo. In secondo luogo, io ho parlato di prima il Nord. Questo è lo slogan del Congresso. Questo è lo slogan, è il che io voglio continuare ad usare. La questione settentrionale è assolutamente irrisolta, non è stata risolta in questi anni, anche per responsabilità nostra, certo, ma perché gli ostacoli e difficoltà sono stati tremendi. Bene, torniamo a concentrarci su questo, ho detto ieri, affrontiamo concretamente i problemi del Nord, degli imprenditori, delle famiglie, dei lavoratori, e diamo risposte concrete. Tornare alla concretezza è la strada che io voglio seguire per raggiungere poi l'obiettivo nostro della Lega complessivo, ma tatticamente, anzi strategicamente, dobbiamo tornare ad occuparci dei problemi concreti. Abbiamo un grande asset rispetto a Grillo o agli altri partiti. Abbiamo una rete di amministratori, di sindaci molto bravi, competenti, giovani, capaci e leghisti. E siamo al governo delle tre regioni del Nord, è quasi la Padania, voglio dire. Se non riusciamo a mettere, dal 2010 questo, se non riusciamo a mettere insieme questa straordinaria forza e a trasformare l'amministrazione, il buon governo delle regioni anche in una battaglia politica, allora perdiamo noi ed è solo colpa nostra. Io vedo grandi opportunità. L'ultima cosa, lei parla delle elezioni amministrative che ci hanno penalizzato, è vero, però si ricorderà che nel 2001 la Lega prese il 3,9% alle elezioni politiche e nel 2006, non tanti anni fa, prese il 4,5%, ma con uno 0,6% portato da Lombardo, quindi scesi ancora anche lì sotto il 4%. Adesso siamo a quei livelli, che è il nostro zoccolo duro, diciamo così. Io vedo grandi possibilità e opportunità di crescere. C'è un nuovo corso che è iniziato ieri, impegnativo per me e per tutti i miei collaboratori. Sono assolutamente convinto che possiamo farcela. Senta, a me interessa non tanto rifarle dire e poi chiarire, perché io capisco che ci sono cose che si dicono per dare un'indicazione. Quando uno dice potremmo non andare a Roma, se io gli faccio una domanda lei me lo ripete tale quale. Ma vediamo se si può fare un passo più avanti senza chiedere di dire se si presenta o no alle elezioni. È ovvio che non mi risponderebbe. Ma forse quando pane bianco dice fare scelte un po' più nette, una di queste potrebbe essere, come lei ha appena detto, questione settentrionale nord, come era prima il nord, un po' più nord, questione settentrionale, così tutti capiscono cosa vuol dire, e un po' meno Padania, che tante volte ha sviato. Ma se nel nord si sviluppasse qualcosa dal basso, visto che c'è un grande casino, l'elettorato del centrodestra, mi pare di capire, che nell'offerta attuale del centrodestra non si riconosca molto, perché è il più di quell'elettorato che non è andato a votare, è il più di quell'elettorato che costituisce il 50% che nei sondaggi non risponde. Se nel Nord si mettesse in moto anche qualche cosa di nuovo, che nascesse dal basso, che nascesse dal mondo dell'impresa e del lavoro, che si considera colpito durissimamente anche dalle linee di politica del governo seguite, scuole tasse, l'IMU e così via, e tentasse dal basso di organizzare qualche cosa che non c'è oggi, perché non è il vecchio PDL con le cose di Berlusconi, non è niente di quello che si veda attualmente in piedi. Lei con la sua Lega sarebbe interessato a capire dal basso anche cose nuove, eventualmente prenderle in considerazione, oppure la decisione se andare o meno a Roma dipende dal vecchio schema con il PDL, a seconda se il PDL vi seguirà nel dire no a Monti a un certo punto, più da questo che da altro? No, guardi, basta vecchi schemi, questa è la prima cosa. Andare o non andare a Roma dipenderà. Io ho lanciato ieri il modello bavarese, la CSU, e cioè la Lega deve diventare, vuole diventare il partito egemone del Nord, come la CSU in Baviera. La CSU non è presente nel Parlamento federale di Berlino, ma è presente esclusiva come forza politica predominante, egemone, appunto in Baviera, e lì rappresenta la CDU, c'è questo patto federativo. A me interessa diventare il partito di riferimento nel Nord, nelle regioni del Nord. Con quale sistema? La Lega che mangia tutti gli altri partiti? Non necessariamente, proprio quello che diceva lei, l'ho citato ieri nel mio intervento, ho detto bisogna dar vita a un blocco politico e sociale del Nord, sto leggendo il mio intervento, che vada oltre i partiti comunemente intesi, un polo che sia aperto e inclusivo, con un progetto fatto di cose concrete, che riporti la questione settentrionale al centro del dibattito, che possa ricostruire una coscienza politica attenta ai bisogni e alle potenzialità dei territori del Nord. È quello che io sinteticamente chiamo il modello Verona, quello che ha fatto Flavio Tosi, ha messo insieme un'alleanza con la Lega, la lista Lega, ma di forze sociali, politiche, che non si riconoscono nella Lega, ma che si riconoscono nel progetto che la Lega sostiene. Ecco, questa è la mia ambizione. Io non vedo l'ora che nasca qualche cosa di nuovo, perché sono assolutamente interessato a dialogare. Nasce ieri la nuova Lega, che è pronta ad aprirsi al confronto, al dibattito, al contributo di chi vuole affrontare con noi e cercare di risolvere i problemi del Nord. Noi non chiederemo a queste persone di mettersi il fazzoletto verde o di diventare leghisti, ma di contribuire con noi alla battaglia del Nord. Io voglio fare entro fine luglio gli stati generali del Nord. Prima il Nord diventa appunto il nuovo brand che noi vogliamo alzare, la nuova bandiera. Gli stati generali a cui voglio invitare i rappresentanti delle società, del mondo delle imprese, degli artigiani, del sindacato, anche lei ovviamente mi piacerebbe molto che venisse a portare la sua voce, proprio per capire quali sono, per aggiornare il nostro programma, le nostre idee alla situazione di oggi. Allora, un'intervista oggi al Corriere della Sera, Roberto Formigoni risponde alle punzecchiature, le più esplicite sono venute da Salvini al congresso della Lega di Assago, e il titolo dell'intervista di Formigoni è «La Lombardia è un leghista? Richiesta legittima, nel 2015, però ora avanti insieme». Maroni, lei che dice? Dico che sono d'accordo, richiesta legittima mi pare una buona cosa. Fra un'ora c'è un incontro tra il presidente Formigoni e il gruppo regionale della Lega a Pirellone. Il nuovo corso che io voglio, che si è aperto ieri, consiste anche in questo. Io non voglio interferire, non voglio essere quello che dà ordini su tutti, a tutti. Il gruppo regionale del Carroccio in Regione Lombardia ascolterà le ragioni di Formigoni e valuterà se ci sono le condizioni per andare avanti. Non c'entra l'avviso di garanzia, non c'entrano le inchieste, la politica deve stare fuori dalle aule giudiziarie e non deve abdicare al suo ruolo di leadership, però è chiaro che ci sono delle condizioni che consentono o non consentono di andare avanti tranquillamente, e dobbiamo valutare se quello che è successo, se quello che sta succedendo in Lombardia, al di là delle responsabilità penali che non mi interessano, non ci condizionano nelle scelte, ci consentono di operare bene da qui al 2015, altrimenti si può anche staccare la spina e andare al voto in Regione Lombardia assieme alle elezioni politiche dell'anno prossimo, facendo un election day, non facendo spendere un euro in più agli elettori, ma il lento e inesorabile declino verso il 2015 vorrei evitarlo. Senta, prima di tornare un secondo sui rapporti con il centrodestra attuale, affrontiamo un secondo il tema della sinistra per come la vede oggi. Se leader del PD, come è già capitato storicamente nella storia della Lega, si rivolgessero nei suoi riguardi con la proposta, l'idea, la suggestione di costruire un percorso su cose concrete diverso dal vecchio schema del rapporto con un PDL nato, creato e guidato da Berlusconi, che tipo di interesse questo tipo di sondaggio, di proposte eventualmente provenienti dal PD avrebbe da parte sua? Ma nessuno, non mi interessano le alleanze. Ieri ho detto, proprio in un intervento durato tre quarti d'ora, ho parlato di alleanze 5 secondi, è l'ultima cosa che mi preoccupa, è l'ultima cosa che mi interessa, voglio ripartire dalle cose concrete, dai temi concreti. Ora, sui temi concreti ricordo che il PD, per esempio, la scorsa settimana ha votato contro al Senato federale, alla nostra proposta di Senato federale, che è uno dei cavalli di battaglia della Lega. È passato l'emendamento di riforma costituzionale grazie ai voti della Lega e del PDL, e il PD ha votato contro. Già questo sul tema, sul terreno delle alleanze, mi farebbe propendere per... Però è una prospettiva nuova quella che io vedo per la Lega, e cioè proprio vediamo nel nord, qui nelle regioni del nord, come fare per diventare il punto di riferimento di tutti, destra, sinistra, imprenditori, artigiani, commercianti, lavoratori, per risolvere concretamente i problemi del nord. E qui nel nord mi pare che la sinistra sia proprio poco attrezzata, in Lombardia, nel Veneto, in Piemonte, con l'eccezione del sindaco Fassino, che conosco bene e stimo, ma per il resto è una sinistra che ha fatto affari, vedi Penati, certo, e che non ha dato dimostrazione di occuparsi tanto dei problemi del nord, degli affari del nord sì, ma dei problemi del nord mica tanto. Allora, è un segnale che oggi su Repubblica, il suo avvento alla segreteria, non viene salutato da editoriali tosti di critica, piuttosto ci sono sì due pagine, però poi in prima pagina c'è un commento in base a numeri, come ci ha abituato da molti anni a fare Ilvo Diamanti, che conferma che c'è un enorme problema irrisolto nel nord, e questo tutti i giornali non possono che riconoscerlo, a meno che non prendano travegole. Il titolo infatti di questa analisi è "Il nord padano si scopre il sud della Germania", e scrive a un certo punto Ilvo Diamanti a proposito del consenso della Lega attuale nel nord, dice: sì, è vero, inoltre i sondaggi la stimano oggi tra il 4 e il 5%, in pratica meno della metà rispetto alle vecchie regionali. Bisogna fare attenzioni comunque prima di dare la Lega per finita, scrive Diamanti. L'ho già scritto qualche tempo fa, non ho cambiato idea. La stima elettorale che viene attribuita oggi in fondo non è diversa al risultato ottenuto alle elezioni politiche del 2006, superiore a quello conseguito alle elezioni tra il 99 e il 2005. Peraltro è possibile che il dato attuale sia sottostimato dai sondaggi per il disagio di molti elettori nel dichiararsi a favore della Lega dopo gli scandali dei mesi scorsi. In fondo avveniva lo stesso negli anni 90. La Lega ha sempre avuto, poi prosegue e io sintetizzo, un andamento elettorale spesso oscillante. Però poi alla fine riprende sulla questione, qui c'è una questione territoriale, e sulla questione territoriale bisogna intenderci, dice alla fine il Ilvo Diamanti, se la questione settentrionale, a cui la Lega ha dato visibilità e voce fino a oggi, sia destinata a confermarsi come problema, o se non vada di fronte a un'eclissi, di fronte al fatto che non c'è nord senza sud. Allora, Ilvo Diamanti, mi sembra che questa conclusione, che torna per così dire alla linea abituale, standard, a cui ci ha abituato Repubblica, sia un po' giustapposta, un pezzo che invece dice e riconosce, e questo mi sembra anche un piccolo segnale nei confronti di Marone da parte di Repubblica, che primo esiste un'enorme questione settentrionale, secondo che poi la Lega è meglio non darla per morta. Allora, se qualcuno però territorialmente dicesse alla Lega: ma se voi volete andare avanti con una proposta di rivendicazione della vostra leadership, e in Lombardia capiste, a netto di quello che accadrà col vostro gruppo da oggi nei prossimi mesi nei confronti di Formigoni, che ci fosse l'articolazione di una possibilità di convergenza in nome della Lombardia, regione di eccellenza dell'amministrazione in Italia, e pezzi di sinistra locale articolassero una iniziativa nei vostri confronti, voi direste: sediamoci e guardiamo l'iniziativa, perché se non siamo d'accordo al merito non se ne parla proprio? O direste invece: non siamo disposti a incontrarvi per una pregiudiziale? Lei vuol proprio farmi fare l'accordo con la sinistra, ho capito? No, a me non va. Diciamo, vabbè, ragionando per assurdo, qualunque partito nazionale, PD, PDL, è fuori da questa prospettiva per noi oggi, non solo perché sostengono il governo Monti, ma perché se la nuova strada della Lega è radicarsi sul territorio, la territorialità per me non è un limite, anzi è un grande asset politico, e su questo io intendo investire. Detto questo, diciamo che possiamo trattare, parlare, discutere con quei partiti che riconoscono anch'essi una propria dimensione territoriale. Vecchi che si trasformano, si federano, nasce il PDL come partito della Lombardia invece che Popolo della Libertà, mi interessa, ma un partito che sta col centro a Roma, che ha la segreteria a Roma, non mi interessa, perché ha altre prospettive rispetto alla mia, non riesce a costituire quel blocco del nord politico e sociale a cui io voglio dar vita. E oggi non mi pare che ci sia nessuno. Sento qualche cosa, qualche fermento nel PDL, questo sì, lo devo dire, ci sono, però siamo appunto ancora a livello di fermenti senza nessuna concretezza. Vediamo se nei prossimi mesi succede qualcosa di interessante. Per ora noi il capitolo alleanze ce l'ho in fondo alla pagina, proprio l'ultimo dei problemi. Adesso dobbiamo recuperare credibilità alla Lega, dobbiamo recuperare concretezza, creare il network dei sindaci, degli amministratori, e prendere qualche azione concreta, per esempio sugli esodati, problema drammatico creato da questo governo di incompetenti. Io ho proposto ieri che i tre consigli regionali, Piemonte, Lombardia e Veneto, facciano una riunione comune per trovare una strategia comune, un intervento sociale comune che porti sollievo a questi 300.000 famiglie che si troveranno fra poco senza stipendio e senza pensione per colpa di un governo di dilettanti che ha creato questo problema. Da ultimo, ha ragione Diamanti, la Lega è stata data per morta negli ultimi 20 anni almeno 40 volte, e quando si sogna che uno muore si dice che gli si allunga la vita, no? E io spero che sia davvero così. Veniamo un secondo alle risposte con il PDL, perché oggi per esempio c'è un'intervista sulla Stampa di Lupi che dice: ora si può parlare di questione settentrionale, la pregiudiziale su Monti scadrà nella primavera del 2013. Lupi naturalmente è interessante anche perché è un pezzo dello stesso movimento di Formigoni, ha fatto scelte diverse, molto più filo berlusconiane, ed è ovvio che nel riservarle questa attenzione è come se proponesse un ponte di continuità, magari anche senza Formigoni. Beh, sono io a dirlo, perché lui naturalmente nell'intervista dice che Formigoni è comunque bene saldo in sella e così via. Ma lei se lo vede un PDL capace di articolare nel nord una proposta settentrionalista, per così dire, produttivista, per la parte a più alta intensità di manifattura, un PDL che spesso invece ha fatto la scelta opposta, cioè di mascherare attraverso la logica di un tradizionale partito nazionale il fatto che poi diventava nel tempo sempre più dipendente dai voti del sud, di grandi regioni del sud, con logiche che sono quelle, senza essere antropologicamente accusabili di avere pregiudizi negativi, però più tipici del voto di scambio di potere delle clientele classicamente associate al voto in grandi regioni del sud. Cioè, se lo vede un PDL che si autoricentra sulla questione produttiva? Non lo so, se non lo fa penso che sia destinato a sparire o comunque a ridursi di molto. la prospettiva, la crisi dell'Europa, la crisi dell'euro di cui abbiamo parlato, gli sviluppi che vanno in quella direzione, cioè di destrutturare gli stati nazionali e creare l'Europa delle regioni, perché questa è la prospettiva che ci aspetta nei prossimi anni, nei prossimi decenni, trasformeranno radicalmente anche la rappresentanza politica. Se PDL sarà in grado di riformarsi, Berlusconi ci ha dimostrato in questi anni giochi di prestigio a non finire, Predellini eccetera eccetera, però è anche finito quel ciclo, c'è da dire. Noi abbiamo avuto come Lega un colpo di reni e un atto di grande coraggio ieri, di grande passione, e molti hanno pianto ieri, perché abbiamo cambiato una leadership storica, carismatica, che ha fondato questo movimento, e non è stato facile, però ieri è stata una scelta matura, di un partito maturo, perché tutti i delegati, tranne due, ma tutti hanno capito, e pur avendo grande affetto nei confronti di Bossi, hanno scelto il rinnovamento. Se il PDL si rinnova, bene, se no sarà destinato, secondo me, a rimanere il partito del Sud, con al centro il rosso delle regioni rosse, al nord il verde della Lega e del blocco di chi si occuperà della questione settentrionale, pezzi anche di PDL, ma ex PDL, e al sud, diciamo, il bianco degli ex democristiani, se vogliamo usare i colori del tricolore. Io la vedo così, non dipende da me, io sono interessato, ripeto, a tutto ciò che succede qua, però deve essere un cambiamento vero, non solo un cambiamento di facciata. Senta, ci avviamo verso la fine. Il Presidente della Repubblica ricorda sempre, nel dire no a chi chiedeva o faceva intendere di preferire le elezioni a ottobre, che uno dei motivi di fondo è l'impossibilità di votare con questa legge elettorale. Se dovesse dirci, di fronte a un'eventuale convergenza che davvero poi mettesse mano a verifiche vere, al di là delle chiacchiere su chi vuole doppi turni, tripli turni eccetera eccetera, la Lega a quali concrete eventuali modifiche dell'attuale legge elettorale potrebbe dare una mano, pur non facendo parte della maggioranza che sostiene il governo? Ma guardi, non ci ho ancora pensato, adesso lei mi dà uno spunto interessante e mi metterò a lavorarci sopra. Non ci ho ancora pensato, perché in questi giorni ho pensato al congresso, alle cose da dire, al programma, alla riorganizzazione interna alla Lega. Dobbiamo lavorare molto e già stamattina abbiamo cominciato, ma mi occuperò anche di questo. Sul Presidente della Repubblica sento tante esternazioni, alcune le condivido, altre no. Questa sulla legge elettorale la condivido, non si può andare a votare con questa legge elettorale, benissimo, sono d'accordo. Vediamo quale, purché non sia una legge per fregare la Lega o per fregare qualcuno, ma per dare più potere di scelta ai cittadini, va benissimo, qualunque legge, non abbiamo timore. Quello che non condivido del Presidente della Repubblica è stata l'affermazione che non si possono fare le riforme costituzionali perché non c'è tempo, ci sono 10 mesi davanti. Ricordo che il semestre bianco esiste per il Presidente della Repubblica, non per il Parlamento, che fino all'ultimo giorno può legittimamente deliberare, persino modificando la Costituzione. Io mi auguro che, al di là delle chiacchiere, il Parlamento prosegua e concluda la riforma costituzionale che abbiamo approvato al Senato la scorsa settimana, col Senato federale, l'elezione diretta del Presidente della Repubblica. Sarebbe un segno straordinario di vitalità della politica. Temo che ci saranno tanti problemi in questo e non sono affatto ottimista, però sarebbe davvero un segnale molto interessante. Allora, auguri onorevole Maroni, ci faccia dire alla fine che credo sappia bene, ma si ricordi sempre che agli occhi di tanti che anche non avevano votato la Lega, ma insomma ne hanno sempre riconosciuto dei meriti nella rottura di continuità italiana, vederla cadere negli errori per il cui rimedio l'hanno chiamata adesso a sto difficile compito è stata proprio una roba che la Lega le faceva perdere verticalmente credibilità. Sentiamo rapidissimamente un po' gli ascoltatori. Rosa, dalla provincia di Milano. Prego, Rosa. Buongiorno. buongiorno, finalmente dopo tanto tempo, nel senso che ho aspettato molto. Io volevo parlare con il signor Maroni, no? o si dice onorevole. Comunque, per quanto riguarda la regione Lombardia, c'è anche una morale estetica. L'onorevole Formigoni, no? Ha messo un ticket sanitario di 4-5 euro ai disabili mentali perché vengono portati giornalmente in questi centri di pseudo recupero, è di 4-5 euro. Dopodiché si vedono panfili di miliardi e tutto il resto, ha immesso per il buono pasto 4-5 euro al giorno per una famiglia che magari vive di pensione e c'ha già la disgrazia della persona, e chiaramente non è una cosa positiva. Certo, per loro non è niente, visto che con quello che spendono. Per quanto riguarda invece, e già la regione Lombardia, quello che ha detto l'onorevole Maroni è negativo, perché c'è una morale estetica che bisogna sempre comunque non sottovalutare, perché è fatta sulla pelle delle persone. Certo. In un altro caso, la truffa in bilancio loro l'hanno approvata insieme a tutti gli altri. Io sono della Lega, sono una di quelle che è andata sul Po. Io mi sento tradita e non me ne importa niente. Io non credo più a queste persone, perché queste persone sono le stesse che hanno tradito, e sono le stesse come gli altri, anche non credo a Rutelli, che non poteva non vedere, e anche loro non potevano non vedere, perché la realtà era sotto gli occhi di tutti, bastavano che parlassero con le persone. Perché io ho parlato con l'onorevole Formigoni in occasione dell'ultima campagna stampa, io abito a Rò, nel mio coso, mi ha detto che un obolo bisogna che lo paghino tutti, un obolo lo paghiamo tutti, però lui si affitta i panfili. Grazie Rosa, e credo che sia giusto che appunto poi le ascoltino, perché credo che questo sia esattamente il loro problema di relegittimazione, di rifondazione o di discontinuità della politica. Io credo più nella discontinuità oramai, a dirvi la verità, e chissà che presto non cambi in qualche modo anche la maniera di approcciare questa questione. C'è un enorme problema settentrionale, c'è un enorme problema nazionale, c'è un enorme problema d'Italia che non ha risolto la sua questione, e la politica non può dire agli italiani come Rosa: giratevi dall'altra parte di fronte allo sdegno di chi tira la cinghia. Scusatemi Roberto da Brindisi e Massimo di Napoli, perché il tempo è tiranno. Appuntamento a domani.